Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Eccoci qua! Sai che è venerdì oggi? No, oggi è primo aprile, che prevale su venerdì, quindi bisogna stare attenti. Attenzione. E in effetti notizie da... che sembrano la preaprile, invece no, siamo in Italia, sono vere. Sì, non ne sono pescioloni, pesciolini, pescioni, sono tutte cose vere, eh. E ma tu, cioè, a me no, è un paese abbastanza paradossale. Parenti, ma, amici, ma, cardinal Giannino, cominci dai santi, che poi dopo arriviamo. Dai santi che poi arriviamo ai fanti, esatto. Ma con la tonaca addosso, i fanti con la tonaca. Allora, i santi, oggi giornata dei santi dai bei nomi, perché Ugo di Grenoble, Dora, Agape, Chionia di Antiochia, Celso, Macario il taumaturgo, Venanzio, pensa che bello. Dora, il pesciolino di Nemo. Ecco, vedi. Naturalmente qui il fatto di avere bambini piccoli ci segna. Anche nel nostro, noi non siamo di quelli che dice Dora. La santa, Dora il pesciolino di Nemo. O che ne so, una pornostar. No, Dora, ma no. Che quale? Ma perché conosci? C'è una Dora pornostar. Dora, no, il pesciolino di Nemo. Guardate come siamo puri. Mi hai subito incuriosito. Dora. Non fatti per fare carriera in questo paese, come è evidente. Allora, nasce nel 1946 oggi Enrico Sacchi. Nasce, non dico in che anno, certo. Ma comunque nel 1900 Simona Ventura, l'anno è meglio non dirlo, sì. Se no si arrabbia. E un certo anno, in questi giorni, due signori, Steve Jobs e Steve Wozniak, fondano Apple, che quella sì che è una data... abbastanza storica, sì, però mi hai detto Arrigo Sacchi, cioè io che sono cresciuto negli occhi il Milan del grande Arrig. Oggi è il suo compleanno, 1946. Nel 2001 oggi matrimonio gay per la prima volta in Olanda, lo dico perché poi parliamo dei cardinali che si arrabbiano, e il giorno, lo stesso giorno dell'anno dopo, incredibile, sempre Olanda legge sull'eutanasia. Certo, vedere oggi l'infermiera di Piombino. Mannaggia, le accuse sono terribili. Mamma mia, terrificanti. Terribile. Io devo dire la verità, quando mi è capitato di andare in ospedale c'avevo il terrore che potessero capitare cose simili. Non si sa mai dietro la psiche della... dietro la psiche. No, anche perché non è il primo quando caso. Quando non sei in condizione di sapere, capisci che qualcuno a un certo punto clic, gira la chiavetta e... È vero. Comunque, come potete immaginare, ci sono tantissime notizie sulle quali potete sbizzarrirvi. 800 24 00 24. Intanto continueremo sulla questione pensioni di invalidità, siccome hai citato Mastella, avremo Clemente Mastella. L'abbiamo chiamato alle 8:40, sarà con noi Clemente Mastella. A difendere il Sud, per così dire. A difendere il Sud, quindi continuate a chiamarci sul tema pensione di invalidità civile. Certo, adesso parliamo del cardinal Bertone, anche l'attico. Oscar, però ci siamo svegliati e abbiamo un ministro in meno al governo. Abbiamo ministro, un ministro in meno. Federica Guidi si è dimessa. Non poteva che fare altro, secondo me. Perché il conflitto di interesse è palese, poi ci si può aggiungere quel che si vuole, i dubbi sull'indagine a tempo perché c'è il referendum che arriva, quel che volete, il fatto che Renzi non l'ha difesa, l'ha scaricata perché la Guidi non è del PD ma era ministra del Nazareno, d'accordo, però la mia opinione secca è questa: per me e per noi pochi che difendiamo l'impresa, il mercato, la concorrenza e la trasparenza, un ministro, un imprenditore che cade sul conflitto di interesse manifesto non fa tre volte male, non una volta. No, riepiloghiamo per chi non ha capito cosa è successo. La ministra Federica Guidi è stata intercettata in una telefonata con il compagno, perché il compagno è indagato, e in questa telefonata in pratica rassicura il compagno su un emendamento alla legge di stabilità, come dire, tranquillo, passa, anche perché Maria Elena, cioè il ministro Boschi, è d'accordo, e quindi passerà questo emendamento. Un emendamento riguarda un giacimento petrolifero per il quale il compagno di Federica Guidi aveva due aziende che lavorano, insomma. E infatti subito dopo questa telefonata lui avvisa i dirigenti della Total dicendo: ho saputo che passa l'emendamento. Infatti lui è indagato per improprio commercio di influenza, il 346 del codice penale. Perché? Perché grazie a questo emendamento nella realtà dei fatti lui riesce a entrare nella lista dei possibili fornitori della Total, a cui presenta il ministro li riceve, e diventando fornitore della Total, quindi non era direttamente per lui, lui è ammesso a un beneficio che altrimenti non avrebbe potuto avere. E proprio questo consiste l'articolo del codice penale: chi si procura tramite l'influenza di un ministro, di una figura pubblica con cui ha un rapporto, in propri vantaggi patrimoniali commette un reato, e questo è il reato per cui è indagato l'imprenditore. Il problema è che la ministra è intercettata mentre parla, lo avvisa, parla dell'emendamento, e cita il ministro Boschi, e il PD la scarica brutalmente ieri dicendo: beh, era la seconda volta che ci provava, perché anche nel decreto sblocca Italia, cioè quello del luglio 2014, queste sono intercettazioni del novembre-dicembre 2014, anche nel decreto precedente il ministro Guidi aveva tentato di far passare lo stesso emendamento, quindi il PD l'ha scaricata proprio brutalmente. Una brutta vicenda, perché colpisce le imprese nel giorno in cui poi Confindustria elegge designa il suo nuovo presidente Vincenzo Boccia. Quindi No, ma su questo anche diteci la vostra, cosa ne pensate, ovviamente per gli elementi che avete raccolto. A me ha colpito, sai, nello storytelling ha colpito la reazione di Renzi, ovviamente non ufficiale, tutti in retroscena, imbufalito, l'idea è non puoi rimanere, e soprattutto ci hai mentito ed era la seconda volta che lo facevi, esatto, e soprattutto devi dimetterti entro le 20. Perché uno dice: che succede? Beh, ma lo sai cos'è, no? Ci sono i telegiornali. Telegiornali che scandiscono lo storytelling. Vabbè, questo però da sempre. Le decisioni. Pensa che in Italia siamo anche un paese dove spesso le sentenze arrivano a ridosso delle 20. In modo che sentenze di processi importanti, ovviamente. Il pronunciamento della Procura di Milano nei confronti della politica avvenne in una diretta. Perché così c'è, se arriva alle 20:30 la gente non segue i telegiornali il giorno dopo. Vabbè, c'è questo aspetto anche comunicativo. Posso fare una domanda? Ma tu hai capito dai giornali di oggi, perché io non l'ho capita, vicenda Scontrini presidente del Consiglio Firenze, non tu hai capito se il TAR non si dice capito. Avete accesso, cari amici dei 5 Stelle, finalmente agli Scontrini vi sono negati, oppure come allora sostiene il PD? No, Andrea Romano dice: i 5 Stelle vogliono suonare, allora, saranno suonati. Non so. I 5 Stelle non si riesce vogliono, a capire mai. Non si capisce. I 5 Stelle vogliono avere accesso agli scontrini di Renzi. Secondo quello che si è capito, il TAR ha dato loro torto. Però la stampa dice che è una sentenza che si presta a varie interpretazioni. Perché la stampa, per cui leggiamo il titolo: il TAR riapre il caso degli scontrini di Renzi quando era sindaco. Esatto. Da lunedì il Movimento 5 Stelle potrà accedere alle spese. Guarda, io non. Però uno legge l'articolo. Sì, sembra che possono accedere, e invece gli altri articoli dicono che invece il TAR respinge. Però è un po' colpa nostra anche che non sappiamo spiegare le cose, lo vogliamo ammettere. Beh, un po' sì. Ma mi avevano spiegato una volta, sì, guarda, che dalla sede del comune, fonti autorevoli mi aveva spiegato che in realtà l'accesso agli scontrini di Renzi è pubblico, ma nel senso che dicono: ok, venite qui, questi sono gli scontrini in una grande stanza, perché immaginati 10 anni di... potete controllarli, ma non possono uscire da qui, non potete fotocopiare, cioè sono accessibili, non so, a un consigliere comunale che ne aveva fatto richiesta, potete stare qui e spulciarli uno per uno, ma non si possono portare via, questo è il senso, no? Qui però sembra che il senso che sia che in realtà poi non c'era più neanche questa facoltà, cioè neanche di... Beh, no, quelli sono atti pubblici, per un consigliere comunale può averne accesso, non credo io e te, ecco. Comunque qui il problema è che la risposta del segretario generale era arrivata in ritardo rispetto ai termini che erano prescritti per la risposta alla domanda dell'accesso pubblico, e quindi quando i 5 Stelle avevano nel frattempo presentato le stanze al TAR. E vedremo che cosa succede, perché francamente quello si che capisce è che non si capisce. Posso dire, la mia è questa: i giornali non se la sentono di dire esplicitamente che in realtà la facoltà di accesso è riconosciuta, perché sanno che questo è un tema sul quale Renzi e i suoi si incazzano come belve. Ho capito, ma se è riconosciuto o no, cioè, allora, se c'è una sentenza del TAR che dice, potrebbe dire, è riconosciuto l'accesso, non diamo la notizia, voglio dire. Ripeto, il TAR da una parte respinge il ricorso formale dei 5 Stelle, però ribadisce il principio dell'accesso agli atti e stabilisce il percorso entro il quale si potrà fare. E questa seconda cosa, quella che secondo me conta di più, conta di più. La mia opinione, la mia opinione. Comunque, Cardinal Giannino, qui c'è un tema allegria, molto serio. Allora, il Cardinal Bertone ha scoperto, secondo l'Espresso in realtà sapeva tutto, in realtà lui dice ho scoperto che la filiera di pagamenti, nota come le chiama sul Corriere della Sera, la filiera di 422.000 euro per comprarmi lattico, 422.000 euro, più 300.000 li ha messi lui. Erano i lavori per lattico, sì, certo. Non per comprarsi lattico. Certo, i lavori. 300.000 li ha messi lui, sì, ma dice. 422.000 pare l'ospedale Bambin Gesù. Soldi che devono andare ai bambini malati, la fondazione Bambin Gesù, sì, esatto. Di cui l'Espresso ha pubblicato lo scambio di lettere di profitti, che dice: quei soldi li mettiamo, noi saremmo favorevole eminenza per organizzare nella sua prestigiosa magione degli incontri in maniera da renderli ancora più... Proprio così scrive nella lettera, non credo. No, la prestigiosa lettera... magione. La lettera è presso, il frasario è molto aulico. E al fine di dare questa esclusività della magione, perché naturalmente i coinvolti nell'attività... a cui la fondazione poi chiede di sostenere con il denaro la fondazione e le attività della fondazione del Bambin Gesù. Segue carteggio tra la segreteria, tutto protocollato del cardinale con la fondazione, in cui si dà l'ok, e si dà l'ok con una formula a un certo punto nella quale si sembra sollevare la fondazione dal dover mettere lei i soldi o doverli solo anticipare, perché poi c'è una specie di garanzia che altri li metteranno, e questo è l'argomento che usa il cardinale Bertone oggi anche nelle sue interviste, dicendo: ma come, al contrario, si fa capire che sono io che mi farò carico di trovare questi soldi. Sta di fatto che lui all'inizio ha detto che non ne sapeva nulla, mentre ci sono lettere protocollate. Ma guarda che oggi ancora il Corriere della Sera dice: non ne so nulla. E tra l'altro dice anche che ci sono 30 cardinali che vivono in case più grandi della sua. Sottoponiamo la richiesta di IMU, perché non lo so. Più grandi di quella? Però devo fare ammenda, caro Oscar, perché giustamente io non so come riuscirò a tornare a casa da mia figlia se mi ha sentito oggi in onda, perché ho detto che il pesciolino si chiama Dora, invece si chiama Dori, e lo sapevo. Io non lo so. Poi vedi perché dice pornostar. Entrerò a casa con lo sguardo strisciando sui gomiti. Cara figlia, non ho capito niente della vita. Scusa. Ma no, tu gli dici: sai, papà, quando c'è il cartone, io quando dicono l'ultima lettera, sto già dormendo. Vabbè, mi alzo presto la mattina. Ma dai, lo sanno tutti, Alessandro. Senti, ci chiama Gianni da Ascoli Piceno. Buongiorno, Gianni. Sì, buongiorno. Che buongiorno. Vuole dirci? Volevo dire due cose. Una sulla Guidi, che secondo me non è così grave. Per me è grave se questo signore mette dentro a queste aziende di estrazioni mafiosi, camorristi. Questo magari non va, se non va a pagare le tasse, se usa tecniche di estrazione pericolose. E tutte queste cose qua. Cioè, non è grave il fatto, lei dice, che di informare il compagno che faceva affari con quel pozzo petrolifero: guarda che quell'emendamento passa, come dire, stai tranquillo che passa. Non è grave, perché a mio modo di vedere a quei livelli non ci lavorano persone così, diciamo, comuni. A quei livelli ci lavorano i massimi dirigenti, secondo me, di economia e di finanza. Sì. Per me è molto grave che... Ci sarebbero più gravi altre cose, quelle che ci ha detto Gianni. Beh, è interessante questa posizione. Gianni, la ringraziamo. Gianni, non so se ha capito. Lì il punto è che grazie a questo rapporto, a questa telefonata, a questo emendamento, questo imprenditore entra nella lista dei fornitori di una multinazionale. Senza non avrebbe potuto farlo. Quindi è un atto grave nei confronti della concorrenza. Una qualunque altra impresa che non abbia un rapporto di questo tipo col ministro, magari più brava di lui, ma non riesce poi a diventare fornitrice di Total. Questa è... Il capo d'accusa per cui è indagato, naturalmente, poi bisognerà vedere. Però devo dire che prima avevo Vincino, e Vincino ha detto: ma secondo me la questione formale è questa. L'emendamento è un emendamento corretto e giusto dal punto di vista politico, come peraltro sostiene. Oppure no, è una sua posizione. Cioè non è... Sì, ma credo che, ripeto, siccome la vicenda è come sempre complessa da capire. Cioè, il punto non è l'emendamento, il punto è il vantaggio che questo imprenditore ottiene da un rapporto personale con il ministro, che è un vantaggio che nessun altro che nessun altro può avere. L'emendamento può essere ottimo, figurati, io sono per le trivellazioni, figuriamoci un po'. Però il punto è che lui consegue un vantaggio e il ministro, nel rapporto personale con lui, glielo offre il vantaggio, e questo è una cosa che ovviamente l'ufficiale pubblico non può tra fare. L'altro, Oscar, in questa vicenda secondo me c'è un'altra figura di cui si scriverà molto: il sindaco di Corleto Perticale. Conosci questo nome? No, conosci questo comune? Corleto Perticale è una sindaca, per sembrano la i luoghi di un romanzo del Partito Democratico, Rosaria Vicino, che è intercettata, visto che ha trovato i pozzi, no? Cioè, ha trovato proprio l'oro nero. Sì, ma devi ricordare che all'epoca il PD non era sulla posizione, nel frattempo l'ha cambiata due volte. Quindi stiamo parlando dei mesi in cui il governo aveva sbloccato la richiesta di nuove concessioni. Adesso siamo di nuovo al divieto, anzi spaccati, perché il governo è per il no alle nuove concessioni e contemporaneamente boicotta il referendum di chi era contro le concessioni. Ma ripeto, questo sindaco di fronte al fatto che l'avevano scoperto, Rosaria Vicino, intercettata, diceva: Giuseppina, me l'assumete alla mensa della scuola. Nicola, Rocco, Carla, Rocchina, Immacolata, sembra di Santi, che dici tu, Rocchina Immacolata, mi raccomando. E poi il pane lo comprate da De Angelis, che è un fornaio di qui, molto buono. Il non prezzo. È il direttore dell'unità. No, il prezzo. E poi a un certo punto prende la macchina dei vigili per andare dal parrucchiere. E il capo dei vigili dice: io sono il sindaco, capo della polizia municipale, e faccio quello che voglio. E vado dal parrucchiere con la macchina che dico io. Oh. Perché il sindaco, ormai questo siamo, un ufficio di collocamento. Capisci il potere moderno? 2500 anime, Corleto. Il potere moderno, quella è l'eterna perticara. Rappresentazione di un paese che, dal ministro Guidi al sindaco di quella particolare, si mette la bandiera del tengo famiglia. Questa è la grande cosa pubblica. Dice. Sentiamo Sergio da Monza. Sergio, buongiorno. Sergio. No, Stefano da Pordenone. Buongiorno, Stefano. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino, siete forti. Bene. Io volevo fare una considerazione partendo dal tema della Guidi, che però va un pochino più lontano. Comincio a preoccuparmi sinceramente, come italiano, il livello di preparazione delle persone che accedono a ruoli importanti come i ministeri. Penso alla Mogherini che piange, penso alla Guidi che si dimette, penso alla Boschi che probabilmente ha qualche intrallazzo. Credo che sarebbe auspicabile, io faccio il manager in un'azienda privata e da 20 anni leggo curriculum quando cerco di assumere delle persone e cerco talenti, guardo la loro formazione. Forse in Italia bisognerebbe cominciare a parlare di una scuola superiore o di un'università della politica che insegni alle persone a fare politica, che insegni alle persone come si ricoprono certi ruoli. Insomma, vede. Per esempio al signor Renzi che sarebbe il caso di imparare l'inglese prima di mettersi a girare il mondo. Beh, guardi, sull'inglese non è proprio uno dei peggiori riguardo ai governanti passati. Però, comunque, Stefano, no, perché Stefano, l'audio si sentiva anche poco male. Secondo lei chi li nomina a quel punto i docenti dell'università per fare politica? I politici, no, guardi, io ci credo purtroppo poco. Il comunque dice i curricula dei politici sono scarni, mettiamola così. No, il problema è che l'Italia è piena di gente straordinaria che non ci pensa più da 20 anni o 30 anni a prestarsi alla politica. Si occupa delle proprie carriere professionali, di far soldi, di andare all'estero, di fare imprese. Perché? Perché la politica è diventata da tanto tempo, e abbiamo avuto tutti l'illusione 20 anni fa che potesse cambiare con mani pulite e scambio di interessi e favori. Questo è in Italia più che altrove. Non dico che solo in Italia, perché no, non crediamo che nel mondo ci sia il paradiso. Non sono verginelli fuori di noi. Appunto. Anche se tu tanto mi riprendi quando dico: beh, ma siamo italiani. Non è così. Insomma, no, anche io non penso che sia nel DNA. Penso che ci sia un sistema politico che uno Stato unitario ha fatto tardi e male, che purtroppo trasmette questo senso del tengo famiglia. C'è l'interesse privato che prevale. Guarda il conflitto di interesse. Il sindaco, il fornaio. Il conflitto di interesse è il problema eterno di questo paese. Sì. A piccoli, a bassi ed alti livelli. Chiaro. Io devo dire la verità. All'inizio dissi a chi dei miei amici andava a lavorare con il ministro Guidi, Carlo Stagnaro, lo sanno tutti sotto Bruno Leoni, un ministro che ha un'impresa che si occupa di energia al MISE, ottimo, perché Federica Guidi io ne avevo stima personale, dico, però la regola dovrebbe essere che lei non deve occuparsi minimamente di nessuna questione energetica, visto che in famiglia ha un'impresa di energia, no? E guarda su come è caduta su una questione di energia. Guarda caso. Comunque, noi tra poco avremo Clemente Mastella, parleremo e Giuliano Cazzola, pensioni di invalidità. un po' squilibrate, diciamo, da nord a sud, un pochino squilibrate. E anche lì tenteremo di fare chiarezza su qualche numero che i giornali ieri hanno messo nella testa degli italiani con eccessiva semplificazione, dando messaggi sbagliati, perché io ieri sono stato coperto di mail di ascoltatori che dicevano: intollerabile un paese in cui la pensione media è 700 euro. Vi spiegherò che non è così, però non è colpa vostra, perché purtroppo l'informazione vi serve male. Tra poco. Eccoci qua, caro Oscar, sono le 8:41 minuti. Allora, le pensioni di invalidità. Ieri abbiamo fatto un po' arrabbiare qualcuno. Perché abbiamo ricordato, come sempre, i coefficienti di diversa distribuzione, per così dire, nelle regioni italiane delle pensioni di invalidità. Però lasciami dire che su questo ieri i giornali italiani hanno fatto un po' di pasticci, per così dire, perché si sono limitati a ridare i dati che nella sintesi dell'osservatorio dell'INPS sulle pensioni. Su questa storia dell'importo medio, per così dire, di 750 euro mensili delle pensioni italiane, e naturalmente noi siamo stati, come tutti, subissati di lettere, dicendo: ecco un paese in cui ci condannano alla miseria, ci hanno gabbato con l'euro, ci gabbano con le basse pensioni. Allora, non è proprio così, nel senso che quel dato medio lì è la somma, e poi divisa statisticamente, di tutti i tipi di 23 milioni di prestazioni per 16 milioni di persone che paga l'INPS, cioè comprese quindi le pensioni al minimo, quelle di invalidità, che sono molto più basse, perché lo dico per gli ascoltatori: se pensiamo solo al milione invece di trattamenti di pensioni, quelle vere, cioè quelle di anzianità e di vecchiaia, ecco, il livello medio diventa di 1455 euro per gli uomini, 766 per le donne, cioè di 1147 euro, però di 1455 euro per gli uomini. Quindi solo per dirvi che l'informazione, secondo me, italiana, questo dato ve lo doveva dare così. Questi 750 euro comprendono anche le invalidità, molto basse, le pensioni dei superstiti, che sono molto basse, che abbattono la media, abbattono. Detto questo, ci tenevo a dirlo, perché ero passato il pomeriggio a rispondere. Detto questo, ieri quando abbiamo parlato di pensioni di invalidità, abbiamo citato un nome qui in onda, che è Clemente Mastella, che è con noi, candidato sindaco a Benevento, oltre che, sapete, la storia passata, ministro. Clemente Mastella, buongiorno e ben ritrovato. Storia, buongiorno a voi, non so perché mi abbiate chiamato, ma comunque citato ieri, quindi non lo so, ora lo scopro. Citato, adesso lo scopro, no, ma perché la citava anche Sergio Rizzo, diceva Oscar Giannino, Clemente Mastella è sempre stato uno di quelli, per esempio, che storicamente ha difeso ha spiegato il fatto che, diciamo, c'erano due diversi strumenti di integrazione al reddito, diversi in Italia, perché mentre nel nord si concentravano le pensioni c'erano le pensioni di anzianità, quelle favorite. Al sud, siccome nella storia lei lo ha detto più volte, per questo l'ho citata, quindi non è che... Ma ha ragione, cioè corretto questo, cioè la mia idea qual era? Se lo Stato interveniva, come intervenuto tantissime volte, fuori della Fiat o altre grandi imprese, lo Stato, si fa di bene, che significa lo Stato, che era quello anche fatto dal cittadino che non guadagna nulla o povera gente che contribuisce allo Stato, nella distribuzione del reddito, se tanta parte andava al nord, e questo costituiva anche possibilità per cui arrivavano operai alla fine del loro ciclo lavorativo, per pensioni di anzianità o di vecchiaia, al sud questo non esisteva, perché non c'erano aziende, quindi come tale non c'era la possibilità, diciamo, di far valere alcuni diritti, che era quello il diritto al lavoro. Per cui c'era, io credo, una forma di integrazione, di connivenza col nemico, il nemico era la povertà, per cui al sud evidentemente c'erano maggiori pensioni invalidità per la semplice ragione che non c'era lavoro. Questa è l'unica ragione, capito, vera. Però la questione... lo Stato interveniva a far questo, perché non mi dica che la Fiat a Melfino abbia avuto e goduto di favolosi privilegi da parte dello Stato. Però Mastella, quello che non abbiamo capito è che la mancanza di lavoro come si trasforma con quel passetto successivo nella necessità di dare pensione di invalidità. È questo il... No, cioè la pensione di invalidità va data a un invalido, ecco. Ma vuol dire, in larga misura era così, ci poteva essere, diciamo, una estensione di benevolenza. Un'estensio benevolenzie, diciamo. Nel senso che, anziché, come dire, far contrarre la pensione a chi aveva il 55% di invalidità che era reale, lo passavi al 70% e godeva la pensione. Questo mi è tutto, a me. Tutto ciò però ha disastrato i conti dell'Inps adesso, cioè, non solo questo. Però le posso dire, lei mi deve spiegare, se lo Stato dà e non garantisce i posti di lavoro al cittadino meridionale, io poi voglio capire, cioè, se al nord lo Stato dà rispetto alle grandi imprese, per cui sono anche in grado io, se lo Stato mi dà soldi a fare impresa, e se invece aiuti i poveri cristi non va bene, lo Stato è disastrato, ma l'impresa disastra lo Stato, dello Stato che invece dovrebbe fare come impresa privata. Vede, questa è la logica del mercato. Vede Mastella, se si inizia dalla premessa, sa che noi la pensiamo diversamente, lo dico con rispetto, se si inizia dalla premessa che è lo Stato che deve garantire il lavoro, che non è il suo mestiere, no, deve creare le condizioni del lavoro. Ecco, si finisce col dire, siccome lo garantisci più a me, allora che lo Stato abbia dato centinaia di miliardi sfondo la porta aperta con una scarsa polemica per anni. Ha ragione, c'è stato questo, allora quello il coraggio di dirlo, questa è la verità, per carità. Ma infatti io per questo mi sono permesso di dire che lei l'ha ricordato. Al nord si garantisce il lavoro, al sud pensione di invalidità. Voi ve ne strafottete di prendere la parte fotografica del nord e zoomate solo su quella del sud. Ma l'abbiamo chiamata apposta invece per riconoscendole che lei lo ha detto per tanti anni, ci mancherebbe altro, al contrario. Ma io di fatti riconfermo questo, cioè c'era una forma di presenza dello Stato fino a quando, scusi Giannino, lo Stato, lei è uno che non è a favore dell'intervento dello Stato, esatto. È uno che ho sempre detto le sue cose, quindi che apprezzo, diciamo, l'intelligenza e la vivacità con cui le dice e le scrive. Però facciamo una sintesi. Se lo Stato non deve intervenire oggi nel mercato, lei mi deve spiegare i soldi dello Stato a favore, che so, degli ospedali pubblici che siano migliori, della parte certo. Servizi di qualità che siano dovunque. Se lo Stato i soldi alle grandi imprese e non li dà per altre qualità di servizi in tutto il territorio nazionale, questo è anche un modo di fare in maniera poco seria. Sì. Questo si è verificato. No, ma è chiaro. Senta, Mastella, insieme a lei abbiamo chiamato anche Giuliano Cazzola, esperto di welfare, anche lui prima sindacalista, poi in politica. Cazzola, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a lei. Ecco, allora, Cazzola è uno che sui numeri tenta sempre di dare una mano perché la gente capisca. Per esempio, i numeri, nella sua Emilia Romagna, raccontava ieri il giornale, c'è in rapporto alla popolazione, ovviamente la metà degli invalidi civili della Calabria, Cazzola. Questa cosa le suscita qualche considerazione? Ma sicuramente, guardi, innanzitutto io voglio ringraziare Giannino perché ha fatto chiarezza sui numeri e ha sfatato un po' questa leggenda metropolitana delle pensioni povere, no? Chiarendo appunto che si tratta di una media in cui ci sono dentro tipologie diverse, tra cui anche pensioni, diciamo, per definizione dimezzate, no? Poi non c'è dubbio che la questione dell'invalidità ha una storia. Negli anni 70, per esempio, diciamo, la società assistita si avvaleva dell'invalidità pensionabile, che era quella che prendono i lavoratori e le lavoratrici quando per una malattia, per un qualche accidente non sono più in grado di lavorare. La legge allora prevedeva che venisse meno la capacità di guadagno. Per cui l'interpretazione che veniva data è che nelle realtà in cui non c'era lavoro, insomma, la gente diventava invalida, no? Tanto che negli anni 70 noi avevamo più in pensioni di invalidità che pensioni di vecchiaia. Bedichelis nel 1984 fece una riforma per cui invece della capacità di guadagno doveva operare la capacità di lavoro, per cui da allora le pensioni di invalidità pensionabili sono calate. La società assistita si è spostata sull'invalidità civile. Sì. Tenga conto però che ci sono anche dei fattori strutturali, tra cui l'invecchiamento della popolazione. Sì. Ma sono gli squilibri che incuriosiscono. No, ma infatti gli squilibri territoriali, ovviamente, dove la società è più assistita ci sono anche più pensioni. Ma infatti, cioè, possiamo fare la domanda Cazzola, ma lei la tesi abrasiva e con Mastella. Forti elementi di verità, nella verità dei fatti, sì. Di Mastella. Visto che altrove andavano altri strumenti dello Stato e qui in altre parti d'Italia ne sono andati altri, lei la considera fondata? C'è voluta un'estensione? È una verità o non è una verità? È un po' una verità, ma è un po' un modo di fare le cose all'italiana. Per esempio, i due terzi della spesa per l'invalidità civile è data all'indennità d'accompagnamento. Sì. E l'indennità di accompagnamento è l'altra faccia della badante. Cioè, la gente con l'indennità d'accompagnamento ci paga la badante. Noi siamo un paese che si è inventato un sistema di welfare fondato sulle badanti, che sono donne e quasi sempre straniere, no? E ovviamente, insomma, è un modo di fare un pochino l'italiana che è parecchio discutibile. Certo, noi non abbiamo strumenti di lotta alla povertà e diciamo, prendiamo altri, ci serviamo di altri strumenti per fare assistenza sociale. Sì. Lei pensi che le pensioni di invalidità negli anni 80 erano 400.000. Sì. Adesso andiamo verso i 3 milioni. Io vorrei capire questa cosa, un dato banale da Mastella, cioè quando si scopre che ci sono 84 pensioni per 1000 abitanti in Campania di invalidità civile, 84, mentre che ne so al nord 40 di media, cioè questa cosa lei dice è il discorso che ci ha fatto prima, non la scandalizza, non le dà fastidio, Mastella? Non mi scandalizzo, mi dà fastidio, cioè io vorrei che non ci fosse nulla, ma ci fosse lavoro anche al sud. Cioè, tenga conto che intanto... Ma non è che la mancanza di lavoro si compensa con l'invalidità. Intanto la pensione di anzianità o di vecchiaia scatta per la semplice ragione che c'è il lavoro. Se non ci fosse lavoro non ci sarebbe pensione di invalidità. Ah, no, certo. No, mi pare di vecchiaio o di invalidità. Al sud non c'è questo. Questo è il dato. Cioè, occorre creare condizioni. Ma guarda, se ancora io mo girando facendo il candidato sindaco della mia città scopro che una serie di zone... ci sono una serie di servizi all'energia che costa di più al sud e viene data in dimensione più ridotta rispetto al nord. Lei mi spiega che cavolo di Stato è questo e che non interviene in maniera giusta per consentire crescita alla mia comunità? Questo è il dato. Insomma, parliamoci chiaro. Lei dice che c'è... La traduco in una frase. Lei dice che è una compensazione. Tutto quello che è stato fatto al sud sia stato indovinato, ha sbagliato la classe dirigente, mi accumulo anche in queste responsabilità. Però viva Dio, insomma, il gap è ancora forte, ed è un gap forte non soltanto per la creatività di tanti che sono al nord o di tanti territori che sono andati al nord, ma anche per la semplice ragione che c'è, come in questo periodo, una forma di indigesta presa di posizione, di coscienza rispetto no, al ma io, fenomeno io però una cosa, io capirei se uno dicesse, cioè non lo capirei, però posso seguirla, se uno dice c'è meno lavoro, quindi sussidi di disoccupazione, ma non più invalidità civili, è quella il... A parte di fatto, ma le posso dire, io non conosco le stime attuali, ma ricordo che in un certo periodo andai a valutare, diciamo dall'Istat o altro, e scoprì che ad esempio mi pare che la regione che aveva più alto tasso di invalidità era quello di Perugia, Terni, sì, dell'Umbria, sì. Quindi per dirle, cioè non è poi sempre vero che il sud è così afflitto da questioni diciamo di povertà incredibile, indicibile, sia al primo posto in tutte quante le no ma comunque è vero che poi nella graduatoria c'è sud e sud, non è un sud generalizzato, la Sardegna per esempio è altissima e così via. Comunque, insomma, noi vi ringraziamo, Mastella. Ricordiamo Mastella, candidato sindaco a Benevento. E auguri. Naturalmente, la mia constatazione è solo che questi argomenti ai nostri ascoltatori del nord gli appaiono di tenere l'occhio e hanno ragione, no? È chiaro. Perché nord dicono: come abbiamo dato per decenni un fiume di soldi, li avete utilizzati male. Leggiamo ancora adesso che avete 1200 posti di dirigente sanitario di troppo nella sola campagna, li spendete così e poi dite, e così via. Cioè, l'idea è creare condizioni di lavoro non utilizzando denaro pubblico con titoli impropri di indennità, perché altrimenti ciascuno dirà chi lo fa sbaglia e non mi venga a dire che non utilizza i soldi, certo. Non c'ha i soldi. Però caro Oscar, visto che questa figura del sindaco di Corleto Perticara, secondo me c'è il sindaco che diceva: allora stai scrivendo Minnelli al numero uno, poi metti Carla, Rocchina, Immacolata, Giuseppina, Salvatore, cioè faceva, secondo l'accusa, l'ufficio di collocamento. No, un ascoltatore ha detto: ma c'è uno straordinario pezzo sindaco del PD, di Cettola Qualunque che ricorda tutto ciò. La battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Non è vero, ma come? Infattamente, se tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Se tu non mi voti, intuculati e tutta la famiglia. Eccola qua, vedi? Poi dici che... Ma vedi che... Perché è successo? Perché la realtà italiana è già così, è già così. Intuculate. Vabbè. Certo, qualunque. Che amarezza. Nel giorno in cui un cardinale dice che ci sono decine di cardinali che hanno... 30. Più di lui. lui, che lui sta in una croce, datemela anche a me una croce, sì, come ha quella. Detto, un imprenditore ministro travolto per il fidanzato, un partito che non fa capire bene se il TAR dice che l'accesso ai denari e alle spese del presidente del Consiglio a Firenze è consentito o meno. Questa è l'Italia. Poi dici, perché accetto la qualunque è successo? Perché dice le cose come stanno? Buon weekend, cosa dobbiamo dire? Buon weekend a tutti. Tu domani sei qua, caro Oscar. Io oggi pomeriggio sono qua e anche domani mattina. Ciao. Io volevo ringraziare Giannino, perché questo secondo me fanno estremamente bene e mettono la Chiesa in salute. Io li paragono a quello che fece Gesù nel Tempio.